Thank you. te voglio bene, dopo chi aveva pianto, poi si dice la voce e comincia. Thank you. Thank you. Thank you.